Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che in prima battuta va a monitorare il territorio di Modena, terra di fumettisti, e tutto forse partito da Paul Campani, un personaggio importantissimo che dai fumetti e cartoon di Carosello ha segnato davvero gli anni 50 e gli anni 60. Questa biografia e queste caratteristiche di Paul Campani la sentiremo dalla viva voce del fumettista Claude, che l'ha conosciuto e frequentato. Quindi, dopo lo stacco musicale, la parola a Claude per parlarci di Paul Campani. Al telefono con Claude. Buongiorno Claude. Saluto a tutti. Pochi mesi fa il comune di Modena ha dedicato alcune serate a Paul Campani, che è ritenuto, a ragione, uno dei grandi maestri dell'animazione e che molti di noi ricordano naturalmente tutti i suoi mitici personaggi dei Caroselli. Claude, tu eri amico di Campani, hai anche partecipato a queste serate e qualche anno fa hai curato una sua retrospettiva organizzata dal comune di Modena, quindi sicuramente ci puoi raccontare un po' la storia di questo grande artista che è appunto Paul Campani. Ma io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo, di essere suo amico, poi alla fine, dopo che lui smise di lavorare, ero stato alla Paul Film quando ero giovane ragazzino proprio a fare delle prove, ma comunque dopo è nata un'amicizia, così che ci siamo frequentati, veniva a casa mia, andavo a casa sua, siamo andati a delle mostre insieme. Sì, devo dire che Paul Campani io l'ho conosciuto indirettamente dai Caroselli, dagli anni 50 in cui il Carosello è stato dal 57 al 77, tutti i giorni, 10 minuti. L'ho conosciuto indirettamente perché, senza sapere che erano fatti a Modena, senza sapere che erano fatti da un certo Paolo Paul Campani, che non conoscevo ancora perché ero bimbo, ti dirò, quando li vedevo, questi sono quelli belli. Ah, questi sono quelli fatti bene. E vedendo questi di Carosello di Campani, avevano, soprattutto anche per le scenografie, ma anche per i personaggi, le scenografie avevano un che di disneyano, che allora Disney era l'unico che era in giro, e questo era quello che mi portava di più vicino a lui. Allora ricordiamo alcuni personaggi che lui ha fatto, che molti personaggi di noi di una certa età se li ricordano, ovviamente sì, però uno dei più famosi che c'è ancora in giro è l'omino coi baffi della Bialetti, la caffettiera Bialetti, così, che aveva una caratteristica che non c'era la bocca, al posto della bocca c'erano le lettere. Un'idea fantastica. L'ho sempre definito il cartone animato per non udenti, perché vedendo il Carosello era talmente veloce, ovviamente, che uno avrebbe potuto metterci delle lettere a caso, che non si faceva tempo a leggere quello che diceva con le lettere nella bocca. Però lì veramente, guardando poi i disegni, guardando le cose, guardando le pellicole anche fotogramma per fotogramma, c'era proprio la corrispondenza, diceva ci sono, c'era la C, la I, la S, la O, la N, la O, cose incredibili. E altri personaggi, anche qualche Angelino. Miguel Sommì, anche lui è un personaggio, uno degli, molto diciamo, famoso, molto famoso. Miguel Sommì, quello lì della Talmone, erano quello della Talmone. Riccardone Svanitella, poi Toto e Tata, Fido Bau. Sembra facile. Ma da oggi è facile. Sì, sì, perché da oggi sopra le caffettiere Mocha Express ci sono io. Io, proprio io, solo io. Allora siamo intesi, eh? Quando comprate una caffettiera, basta che guardiate per Benino. Sì. Se mi ci trovate, vuol dire che è proprio una caffettiera Mocha Express. Le grandi imprese di siamo, eh? Ti vuoi cacciare in qualche altro pasticcio? Ma non sai cosa ti può capitare? E ci vuoi provare lo stesso? Dammi retta, non farlo. Anche di cinema d'animazione, non so, i pupazzi animati. Tu che sei stato, anche se naturalmente siete due generazioni diverse, quindi veramente giovanissimo, nel suo studio, nella sua studio cinematografico, diciamo che appunto era Modena, che poi nel 55 si è ingrandito, si è trasferito in questi capannoni dove si poteva veramente fare di tutto, ed era veramente organizzato come tipo Cinecittà, solo con pupazzi animati. Come funzionava? Quanta gente ci voleva? Vabbè, lui è la prima sede che lui fece, la fece a Modena in un sottotetto, ecco, addirittura la cinepresa era attaccata un trave, quelli che si utilizzavano guardandoci sopra, non da dietro l'obiettivo. Il fratello di Polcampani, che era un ingegnere, trasformò una di queste macchine fotografiche, gli mise un caricatore da pellicola, di quelle da cinematografiche, perché lì loro dentro ci stavano solo un rullino 36 foto, ci mise un caricatore da pellicola, poi l'attaccò con trave, cosa molto, virgolette, artigianale, ma molto ingegneristica, tanto che il primo film che fecero lì si chiamava Una battaglia vinta, a colori, allora parlo del 54, non c'era ancora Carosello, vinsero un sacco di premi per quel filmato lì, cioè per dire, nonostante fosse stato fatto in un solaio, perché all'inizio la Paul Film non faceva i caroselli, produceva solo per il cinema, e appunto tutte queste cose qui sono state fatte prima metà degli anni 50, e poi appunto sì, lì nacque poi Carosello, che questo qui fu una cosa incredibile, perché facevano 10 minuti al giorno di pubblicità, poi erano effettivamente dei piccoli film, erano dei cartoni, erano tutte artistiche proprio, c'era una storiellina di 2 minuti e 10 secondi, che però per legge della RAI non ci doveva essere il minimo riferimento al prodotto che doveva essere pubblicizzato, proprio minimamente non doveva essere, che emergeva solo alla fine il prodotto, solo alla fine c'era un codino di 20 secondi dove ti dicevano comprate questo, comprate l'altro, perché questo è più bello, questo è bravo, questo qui pulisce tutto, eccetera eccetera. Poi cosa interessante, non si poteva replicare, che adesso invece lo stesso spot te lo fanno ogni 10 secondi, anche dentro nello stesso blocco, nello stesso passaggio, te lo fanno all'inizio e alla fine, identico. Poteva replicare solo una volta dopo 6 mesi. Io, Joanne e i miei 100 amici! Sotto così il coro, ragazzi! Tutti quanti amici siamo, ed insieme noi cantiamo, questo allegro ritornello che fa Papà, io sono Lino, l'ermellino scoiattolo renna, uno dei 100 bis amici, un papà. Oh, che bella cosa essere in tanti bis amici. Perché chi trova un bis amico trova un bis tesoro. Sì, sì, infatti, quella volta che io attraversavo il caldo bis deserto del Sahara e mi scoppiò una gomma. Oh, no, acqua, bis acqua. Sapete chi venne il mio bis soccorso, Genoveffa, la giraffa, gazzella, dromedario. Glu, glu, glu, glu, glu, glu. Un papà. Grazie, Genoveffa, sarai una dei 100 che cantano. Tutti quanti amici siamo, ed insieme noi cantiamo. Viva, viva, lingue, cuffie di Perugia, di Colucci. questa grandissima esperienza, straordinaria esperienza su un territorio come Modena, che tra l'altro ha dato i natali a grandissimi disegnatori, fumettisti, tra cui ci sei anche tu, ma ce ne sono veramente tanti. Questa esperienza di fumetto, come continuare? E anche questa casa di produzione di Paul Campani fondata, cioè, ha continuato a produrre? Praticamente fece questa casa di produzione per diversi anni, non sapevo che questa casa di produzione era a Modena, io ho scoperto che la Paul Film era a Modena, dunque nel 62. Praticamente poi lì dentro, avevano negli anni 50 e 60, era una delle più grosse case di produzione europee, aveva circa 100 dipendenti, si faceva tutto, ma non c'era i computer, non c'era. Sono nati tanti disegnatori, c'è chi già sapeva un po' disegnare, poi è andato lì a fare animazione, eccetera, eccetera, come secondo Bignardi. Bignardi era un suo collaboratore ancora prima della Paul Film, lui faceva insieme ad Angelo Benevelli, un altro di Modena, gli facevano da inchiostratori quando lui faceva fumetti per l'Argentina. Lui ha disegnato per diversi anni fumetti per l'Argentina, nel periodo in cui c'era in Argentina c'era il gruppo dell'Asso di Picche, ciò che lui li ha sempre disegnati da Modena, non mai andati in Argentina. Anche personaggi tipo Mysterix, Bullrock. Mysterix ebbe un successo tale che gli fecero una testata appositamente sua, cioè proprio solo per lui. E appunto, tornando i fumetti, fra questi inchiostratori c'era Angelo Benevelli. Angelo Benevelli, più che disegnatore, era poi, quando entrò in Paul Film, faceva la stop motion, cioè i pupazzi non erano disegnati, ma erano quando si vedono i pupazzi che si muovono, cioè un pupazzo che clic, si fa un fotogramma, poi dopo gli si fa posta qualcosina, proprio clic, un altro fotogramma, proprio clic, pazzesco, tutto fatto a mano, e tutto fatto che allora non c'erano come adesso il computer, che puoi vedere subito se la cosa funziona o no. Se facevi una cosa sbagliata o per caso per una distrazione, doveva rifare, insomma. Dovevi rifare tutto. Quindi possiamo dire che è stato un po' questo che ha fatto di Modena una città del fumetto, anche oggi. Diversi di questi che dopo anni hanno deciso poi di uscire e farsi una propria casa di produzione. A Modena, infatti, dopo la Paul Film, parlo negli anni 60, c'era la Cartoncine fatta da Verselli e parenti, poi c'era la Ascar Film, c'era lo studio Bignardi, appunto, anche lui, ce ne erano diversi, insomma, tutti nati dalla Paul Film ed erano tutti a Modena, parlo degli anni 60. Miguel Somi! Mamma, lo sai chi c'è? È tornato per davvero, è tornato sul veliero, è tornato sul veliero. Mamma, lo sai chi c'è? È tornato per davvero, è tornato sul veliero, è tornato sul veliero. El dindondero! Miguel Somi, e ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti non dice niente, e ti dice niente a Miguel. Miguel son sempre mi. Il veglieri in mezzo al mare, corre insieme alle balene, lo salutano le sirene, lo salutano le sirene. Il veliero in mezzo al mare, corre insieme alle balene, lo salutano le sirene, lo salutano. Edizione autunnale BTB 2025, iniziamo le nostre conversazioni con i protagonisti. Siamo con Alex Dotti, che innanzitutto saluto e ringrazio per la disponibilità. Buongiorno Alex. Buongiorno a tutti, buongiorno. Tu vieni da una presentazione, ti ho rapito praticamente, e hai presentato? Io ho presentato Welcome to Cherrytown, che è la mia prima opera letteraria. Opera letteraria, sì. Che però chiaramente ha una grande attinenza con l'aspetto grafico. Sì, sì. Vedo che ci sono immagini che... Come si possono definire? Hai citato l'Overcraft. Sì. Io ho dovuto... Tu hai detto, tanti amici hanno iniziato, poi hanno smesso di leggerlo così perché ripetere la stessa frase. Io ho dovuto smetterlo perché, ammetto, sarò di Picaglia tenera, ma perché avevo paura. E quindi... la paura, allora, io sempre sono dell'idea che le persone più forti in realtà sono quelle che sanno abbracciare la paura. A 360, quindi nel senso abbracciarla, non avere paura di esporsi di tutto quello che gli succede nella vita, e anzi trovare la forza da lì per andare avanti e trovarne veramente qualcosa di costruttivo. E c'è un lento adagio che recita, forse per farsi coraggio, che solo i vili non hanno paura. È vero. In effetti quello che hai detto corrisponde a questo pensiero. Alex, entriamo nel tuo lavoro. e già la copertina è molto esplicita, se vogliamo. Ci puoi dire qualcosa di più senza svelare? Allora, sul libro? Sì. Allora, il libro praticamente racconta di una vignola alternativa. Quindi è incentrato tutto su Vignola, come dice il titolo, Welcome to Cherrytown, appunto, non potevo chiamarlo Welcome to Vignola, e serve per far scoprire anche alle persone che andranno a leggere questo libro passo per passo tutto il percorso che i nostri personaggi faranno e vanno a scoprire tutte le nostre bellezze del nostro luogo. In maniera molto particolare, maniera perché particolare. Io sono di Bologna Centro, sì. Amo Vignola e ogni volta che ne ho occasione, ma proprio per la sua, scusa, dolcezza. Tu ne hai dato una visione alternativa, immagino. L'ho dovuto fare perché alcuni miei amici, appunto, un mio amico in particolare, voleva scoprire cosa c'era a Vignola e non aveva voglia di leggere libri di storia, e quindi mi ha detto, ma c'è un modo diverso per... Allora io ho creato Welcome to Cherrytown per, intanto un po' per lui, diciamo, e in più per far scoprire Vignola sotto un altro occhio, ecco. E ha diverse sfaccettature alle quali filo conduttore la città, ok, ma vi è una narrazione, come è strutturato? Sono piccoli capitoli? No, allora, c'è una trama, anche se non amo questa parola. No, allora, le trame sono a sé, sono 8 racconti, okay, che si collegano tra di loro, sempre, hanno un filo, tutti un filo conduttore tra di loro, ma ognuno racconta di personaggi diversi che fanno determinate, e subiscono purtroppo determinate situazioni diverse. E niente, ambientazioni storiche, ci sono ambientazioni storiche anche molto contemporanee, ambientazioni contemporanee anche odierne, anche e soprattutto citati anche luoghi come pub, negozi che ci, okay, sono a Vignola, quindi uno, prendendo il librino in mano, leggendolo anche mentre cammina, può ripercorrere tutti i punti principali del personaggio fino a fine racconto. Cioè, tu hai fatto una guida veramente molto particolare. Sì, è una guida, diciamo. Complimenti, guida. Alex. Grazie. È una bella idea, complimenti. Vorrei chiederti tante altre cose, perché poi io sono curioso di questa struttura letteraria, ma quello che volevo aggiungere è i personaggi che ci sono, come ti ispiri a queste figure? Come mi ispiro? Allora, tutti i personaggi che sono all'interno di questo libro qua in realtà sono miei amici. È immaginato. Quindi ognuno ha una sfaccettatura diversa di personalità e quindi ho deciso di inserirli all'interno di questi racconti qua dove meglio si collocavano. Il lavoro è complementato da disegni? Il lavoro è complementato da illustrazioni, perché io sono, ho studiato anche, appunto, ho fatto tanti percorsi artistici e anche da grafico pubblicitario, e io, se posso dare un consiglio, invece che intraprendere solo illustrazione e fumetto, fate un corso di grafica pubblicitaria. La grafica pubblicitaria aiuta la struttura del prodotto a 360 gradi, quindi scelta di carta, scelta stilistica e tutto il resto. Donne candide, donne che si arrendono, donne in amore, l'amore le perdonerà. Donne magiche, donne che sorridono, dolce mistero, il tempo non le cambierà. Cosa può fare un disegno, 100 disegni, di fronte a tanta distruzione, a tanta sofferenza in un territorio di conflitto come questo in cui stiamo assistendo a Gaza, in Palestina? Eppure qualcosa forse si può fare, e lo vediamo dall'iniziativa di 160 artisti internazionali che hanno risposto all'appello di Medici Senza Frontiere, Svizzera. Ciascuno di loro ha offerto un'opera originale e le opere saranno esposte a Ginevra e vendute all'asta il prossimo 2 dicembre a favore, appunto, delle iniziative, degli aiuti concreti che Médecins Sans Frontières, Medici Sans Frontières, stanno portando avanti, per, e quindi è un modo per sostenere la loro azione medica in una regione devastata dove, appunto, non ci sono più ospedali e né la possibilità, appunto, di portare concretamente aiuti. E di queste opere sarà, ed è già aperta la prevendita, ci sarà un libro, appunto, collettivo dallo stesso titolo, Sans Dessin for Gaza, 100 disegni per Gaza, edito dalla Masson Edition, quindi a partire dall'8 gennaio sarà disponibile anche questo, appunto, a favore delle iniziative di Medici Senza Frontiere. Ecco che All'origine di questo progetto ci sono in effetti quattro figure della scena ginevrina, le artiste Vidia Gastaldon, Sara Benslimane, Maïd Perret e Anne Lamounière, che è stata la banditrice dell'asta specializzata in arte contemporanea. Insieme hanno lanciato questo appello a cui hanno risposto i più grandi nomi della scena artistica attuale, donando appunto un'opera originale generalmente in formato A4. Sono immagini di rovine, ma anche di resistenza. Tra queste, ad esempio, Zepp, che ha disegnato un Titeuf, il mitico ragazzino eroe di tante franzine e tanti album, che tiene in mano sua sorella in mezzo alle macerie. È un'immagine struggente proprio per questo contrasto tra il comics, il fumetto, spesso appunto comico, che rappresenta un'infanzia invece confrontata con la guerra, tutto intorno ci sono solo macerie. Oppure un altro artista, Philippe Timichl, che propone un procione che dipinge su una tela bianca un triangolo rosso rovesciato, che è il simbolo della resistenza all'estrema destra, tutto appunto rosso, in un contesto verdeggiante, l'ambiente dell'animale. Oppure ancora Thomas Hirschhorn, che firma un collage suggestivo, una donna velata, vestita di nero, in piedi davanti a un cumulo di rovine, indica le macerie, appunto, risultato della guerra, proprio sul bordo di un muro da cui invece dall'altro lato si appoggia una giovane donna bionda che posa per un fotografo di moda, perché ha appunto addirittura una pelliccia e una bella acconciatura. Ecco, queste vendite di opere d'arte a sostegno dell'equipe medica di Gaza, lo ricordiamo, per Gaza, di Medici Senza Frontiere, saranno visibili queste opere fino al prossimo 2 dicembre presso la sede appunto di Medici Senza Frontiere in Svizzera a Ginevra, per poi appunto essere vendute all'asta a partire da 500 franchi svizzeri, 536 euro. Sono conteggi e numeri, ma come dicevamo all'inizio, sono forse piccoli grandi gesti che possono cambiare la vita, la situazione di tante vittime, anche bambini, perché dobbiamo dire appunto che i tanti chirurghi, infermieri, psicologi e logistici che cercano di appunto in strutture improvvisate o perlomeno montate all'occasione per fare fronte appunto alla mancanza di ospedali, operano e cercano appunto di prestare soccorsi di fronte a un contesto di estrema urgenza, blocco e carenza di medicinali e infrastrutture appunto mediche distrutte. Quindi questa piccola, grande, diciamo, iniziativa offre una risposta simbolica certamente a questa crisi, ricordando che in fondo l'arte può anche curare, unire, ricostruire, sensibilizzare, far riflettere. In un momento in cui la popolazione di Gaza cerca di sopravvivere e risollevarsi, questi artisti fanno delle loro opere un messaggio, un vettore di speranza e di amore. Due parole su Medici Senza Frontiere, ricordiamo che è stata fondata nel 1971 a Parigi da un gruppo di giornalisti e medici. Oggi rappresenta un movimento mondiale di oltre 67.000 persone che forniscono assistenza medica a persone colpite da conflitti, epidemie, disastri o esclusioni dall'assistenza sanitaria. Sono team composti da professionisti appunto che lavorano nel campo della sanità, ma anche della logistica, dell'amministrazione, della comunicazione e altri mestieri, diciamo, specializzati, basato tutto su un'etica medica i cui principi si riflettono appunto l'imparzialità, l'indipendenza e la neutralità. Il team di Medici Senza Frontiere è presente nella striscia di Gaza da oltre 30 anni, ma la situazione è esplosa ovviamente il 7 ottobre del 2023 dopo gli attacchi di Hamas contro Israele. In risposta, Israele, come sappiamo, ha lanciato una campagna ininterrotta di bombardamenti e combattimenti di un'intensità senza precedenti. Quindi Medici Senza Frontiere opera in ospedale attualmente da campo, centri sanitari, quando e come con i mezzi possibili, cercando di offrire assistenza chirurgica, cura delle ferite, fisioterapia, assistenza della maternità e pediatrica, assistenza sanitaria in generale, cura della malnutrizione e anche servizi di salute mentale. Tuttavia, come sappiamo, il blocco di Gaza da parte di Israele ha lasciato gli ospedali senza forniture sufficienti, nonostante il massiccio aumento della necessità dell'assistenza. Fornisce anche acqua potabile quando è possibile, collabora con organizzazioni locali per distribuire kit igienici e trattamento dell'acqua nei rifugi. È stato da quando appunto è scoppiata la guerra, hanno cercato anche di evacuare 64 pazienti all'estero per cure specialistiche, ma in aprile del 25 l'Organizzazione Mondiale della Sanità stimava che 12.000 persone a Gaza avevano ancora urgente bisogno di cure e queste non erano disponibili. I bambini, sappiamo, sono stati più colpiti da un'indagine retrospettiva recente sulla mortalità condotta da appunto il personale di Medici Senza Frontiere e dalle loro famiglie, rivela il tasso di mortalità spaventoso della guerra totale, del genocidio di Israele contro Gaza, soprattutto appunto tra i bambini. E questo è in linea con i dati forniti dal Ministero della Salute di Gaza. Più del 48% delle persone sono morte in seguito alle ferite da esplosione, e cui anche famiglie dei colleghi, e molti erano bambini, il 40% aveva meno di 10 anni. Queste e tante altre cifre che appunto fanno davvero orrore. Ci fermiamo qui, possiamo dire solo che appunto dal 2023 il Ministero della Salute ha segnalato l'uccisione di oltre 64.000 palestinesi, il ferimento di quasi 200.000. Nessun ospedale nella striscia di Gaza è attualmente pienamente funzionante. Quindi possiamo ripetere solo che questa iniziativa va sostenuta proprio perché direttamente e indirettamente si porta un concreto aiuto in questo settore dell'assistenza sanitaria e non solo. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiocittafugico.it. Ciao a tutti, alla prossima.